ricerca su Web Radio Luzzi, il talent show più seguito, più acclamato, in esclusiva, Amici Maria e Filippo. Buonasera a tutti, benvenuti ad Amici. Presentiamo adesso la nostra giuria. Mara Maronchi! Buonasera puttana, sbrigati che mi aspettate un bel star! Calma la cioncia, ma io. Se no, comincia a pensare un carro funebre che può, eh! Bene, presentiamo l'altra giurata. Grazie di Michele! Buonasera, buonasera a tutti. Volevo dire, Maria, che qua fuori c'è un chioschetto di marito Maggino. Si vivono a fame e gli altri cavassette la panza. Sì, ma pigliamo panino di marito, preferisci morire di fame. Ultimamente tutti i gatti e tutti i cani, i canturni sono spariti, ma va fanculo, va. Ma guarda chi sa. Ma dove credete, al mercato? L'unica abituata a baiare e autorizzata ad abbaiare qua, signore io! E attagnatevi ragazzi, poco. Bene, passiamo al terzo giocato. Lui viene da Brusnano. Signore e signori, Rudy Massimo Verbi. Sì, ciao, ciao. Ciao. Mo io dico io, ma perché? Chi ti dola? Ma perché mi avete messo vicino a questi due cazzi vecchi? Che manca a casa di riposo. E poi poi c'è una copia di Calabria che ne fai su medica. Cari giurati, vi conviene stare con due piedi in due scarpe e due braccia in un cappotto senza maniche. Non c'entra niente l'esempio, però asista come cazzo di voglio usare io. Oh. Sì. Se no, vi dico qua e vi dico avanti a tutti. L'acido muriatico vi aspetta. È pronto già ad accogliervi. Beh, è tardo. Innegli, ma rite ma ne vo. Quindi, facciamo andare il primo esperante. È un cantante! Buonasera, signora Maria! Visto come signor bello! C'ho un cabello, diciamo che ti ha passato la vita mia di soffa. Signor Bello, canale 5! Comunque, spicciati che tengo a che fa. Tengo a che fa stasera. Sì, io canto. Che ne canti, che ne canti? Mo tu stava dicendo. Ma te l'ho domandato io, non tu. Io domandato. Ma io solo rispondo. Mi sempre trovato con Pino Gigliotti, no? Che mi fai fare e poi ogni tanto canto. Io canto tutte le canzoni. A me non mi frega niente, vedi se mi cantano una cosa. Ma visto come canto bene, io già ci faccio televisione a tenno con Mario Scarpelli. Visto come canta bene. Dai, cerca di impegnarti, casa. Tutto va bene, passi l'ombra là, te le parate vera e propria. Sì, allora, ma ancora moro non lo vedo da regia oppure passo a cannella. Devi dare pure un microfono, pare che lo tieni, spicciati, come ti chiami? Sì, per Francesco. Posso allora, andare? Ah, sì, tu sogno io, via, che comando io. Ah, che sono via, sì. Sì. Scende la pioggia, ma che fai? Io zio, poi noi andiamo, pigliamo tutto nella stazione e raccogliamo a Castiglione. Ah, vedi come canto bene io assieme a Chiri Pagola. Bravo, bravo. A quel non so che... Di cavoci in mezzo di palle, bella di cazzo te ne ha fango. Ma ti farà bindare il panino del marito, ma dopo te ne puoi pure a fango. Mi fa bene l'educazione. Ma che cazzo c'è capito niente di musica? Senta, ma chi ci tiene in mezzo? Che bella infrastruttura. Guarda, hai del talento, ci tu vuoi chiamare a Maria che ha scoperto a che l'orecchione di Zero Ferro può stare tranquillo. Raggiungimi in camerino che parliamo della tua carriera. Signora Maio, signora Maionga, che è il talento mio? Perché tengo l'X Factor, vedi come lo faccio bene? Come ha detto? L'X Factor! Vieni qua, chiudi voi, facciamo un test per capire la vocalità. Grida! Bene, per questa sera è tutto. Arrivederci alla prossima puntata. Puttana, ma va tu per la grandezza, ma fa un culo, va. E qua ti scazzo, che ne dici, bro. Boni, per questa sera è tutto. Demo, abbassa sta cazzo di musica, Demo. Abbassa sta musica. Arrivederci a tutti e domani con il marito. Francesco. Basta!